La scrittura ci occorre in quanto proprio scrittura autobiografica. Soffermiamoci su questo concetto di cura. Anche questo concetto sembra che sia apparso di recente, è stato rapidamente utilizzato dagli spot pubblicitari. E non c'è spot oggi ecco, che si dimentichi della parola cura. Gli spot del Mulino Bianco ci offrono delle situazioni di cura e di benessere, di felicità. E anche nel mio libro o in altri scritti, perché il libro che ho il piacere di presentare questa sera, in realtà, è un libro che è stato scritto 11 anni fa, quindi non capita sovente di presentare un libro così, per la rapidità con cui l'editoria edita, così vecchio. Ma è un libro che stranamente continua ad avere un certo seguito, che in alcune parti rivedrei alla luce di tutto ciò che è accaduto dopo. Io ho fondato dopo 4 anni la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, sono emerse altre mie riflessioni, e il libro reca come sottotitolo L'autobiografia come cura di sé. E devo dire che col senno di poi io stesso utilizzai allora questa parola cura di sé in modo un po' troppo, direi, lontano dal senso profondo della stessa parola cura. Dunque, c'è un senso comune, ormai diventato comune, che attribuisce ovviamente la parola cura a un nostro atteggiamento nei confronti di noi stessi o nei confronti degli altri che possiamo riportare alla presa in carico. Nel mondo dei servizi sociali si parla in psicologia o anche nelle diverse forme trattamentali di un disagio si parla di cura, cura del paziente, nel linguaggio medico, cura dell'altro o dell'altra. Ma non è questo il motivo profondo che possiamo ritrovare nella scrittura autobiografica. È vero che scrivendo noi espelliamo da noi qualcosa che avevamo dentro, come un fastidio, come un groviglio, e quindi scrivendo ti accorgi di vivere un'esperienza che per alcuni versi è paragonabile all'esperienza psicanalitica, all'esperienza psicoterapeutica. Si va dallo psicanalista per buttar fuori, poi magari non lo si fa per mesi e mesi perché non riesci e poi ti arrabbi con tutto quello che costa. Invece l'autobiografia basta dotarsi di un lapis, un po' di carta e ottenete talvolta dei risultati interessanti, non dico paragonabili a quelli del trattamento psicoterapeutico perché è un altro tipo di procedimento, ma sicuramente con la scrittura autobiografica metti nero su bianco, come si suol dire, qualcosa che ti premeva dentro. Questo dicono gli autobiografi affermati e famosi, ma anche gli autobiografi, potremmo dire, della strada. Gli autobiografi che si occupano quindi di scrivere all'inizio magari senza saper bene come mai, proprio perché sono guidati da questo istinto, da questo impulso. E guardate che questo impulso ce l'hanno anche gli analfabeti. C'è un fiorire di messaggistica in questa. messaggistica, è pur sempre scrittura, quindi la perdoniamo. Comunicazione. Comunque, una scrittura in tal caso che ci dà lenimento. che lenisce. Già Freud aveva scritto una bellissima immagine che la scrittura è una modalità di riparazione. Scrivendo è come se noi ci trovassimo nella situazione di ricucire una ferita, una lacerazione. Cerchiamo di ricombaciare memorie, passaggi della nostra vita che ci sfuggivano. E quindi scrivendo, noi, un po' rievocando la famosissima metafora di Penelope, noi ritessiamo la nostra storia, la nostra vicenda. E questa ricucitura, questo mettere in rete, reti neuronali probabilmente sono, che chiedono questo, reti intime, interne, è ciò che dà lenimento. Perché? Anche questo ha detto la psicanalisi a proposito della scrittura di sé o dell'autobiografia, noi creiamo intorno a noi come una rete protettiva. È una rete che poi vediamo, che possiamo rileggere, che possiamo riosservare, che all'inizio magari ci dà qualche fastidio perché non amiamo rileggere quello che abbiamo scritto, ma comunque abbiamo espulso dei nodi. Ma io credo che il valore che alcuni definiscono persino oltre che curativo, terapeutico della scrittura, è insito in un altro, forse in un'altra ragione ancora, che ritroviamo forse ancora nel filosofo Derrida che ho già citato prima, quando dice la scrittura stringe e costringe ancora di più la parola, stringe e costringe ancora di più la parola. Cioè la scrittura ci aiuta a cercare le parole migliori per dire quello che vogliamo dire. La scrittura ci provoca come la scrittura provoca uno scrittore che si trova in una crisi di creatività e cerca quindi i termini in modo spasmodico, torce letteralmente la pagina alla ricerca della parola più convincente. Oggi, tra l'altro, con le nuove tecnologie digitali, noi non vediamo più le minute. Non vediamo più le minute, non riusciamo a più ricostruire il travaglio che c'è in una pagina. Ma, riprendiamo le pagine torturate letteralmente di Marcel Proust. Jean-Jacques Rousseau, nell'ultima parte della sua vita, quando scrisse il seguito delle Confessioni, trovando un titolo molto più laico e molto più leggero, le passeggiate di le fantasticherie di un passeggiatore solitario, scriveva sulle carte da gioco che ci sono rimaste ancora. Lui andava in giro, un grande giocatore, carte da gioco e scriveva tutto questo e poi la sera tornava, le rimetteva insieme, ristabiliva le tessere per trovare la possibilità che nella connessione tra una tessera e l'altra comparisse una nuova intuizione. Ecco, il vero motivo, a mio parere, della cura di se stessi è questo piacere di sentire che stiamo pensando e che il nostro pensare diventa immagine, diventa verso, perché ci sono anche autobiografie scritte in versi. Il poeta Mario Luzi è uno dei più grandi scrittori autobiografici in versi. Non credo che abbia scritto la sua autobiografia, ma tutta la sua opera letteraria, io qui ho una sua poesia bellissima, è dedicata a una continua riflessione e riedizione morale, anche etica, con se stesso. C'è questa poesia che si intitola Nell'imminenza dei 40 anni, E non è un caso che, proprio perché dicevo prima, attorno ai 40-45 anni incomincia a apparire questo bisogno di scrittura di sé, che così poeta. Sono tra poco 40 anni d'ansia, d'uggia, d'ilarità improvvise, rapide come rapida a marzo la ventata che sparge luce e pioggia. Sono gli indugi, lo strappo. Si sollevano gli anni alle mie spalle a sciami. Ecco, a 40 anni ti guardi indietro. Io direi che bisogna farlo più spesso e poi andanti negli anni ancora di più, ma a 40 anni è un momento critico. Sono i 35 anni di Dante Alighieri, nel mezzo del cammino di nostra vita, no? Si sollevano gli anni alle mie spalle a sciami, e detto questo posso incamminarmi spedito tra l'eterna compresenza del tutto, sparire nella polvere o nel fuoco se il fuoco oltre la pianura, oltre la fiamma, dura ancora. Ecco, un momento critico, un momento quindi di transizione e di passaggio, che lo scrittore, la scrittrice dell'autobiografia non conosce però soltanto all'inizio, quando decide di iniziare a scrivere, che rivive più volte, che rivive anche poi quando la scrittura a un certo punto, procedendo anche velocemente, liquidamente, diventa quasi un'ossessione, un bisogno di ricomposizione e soprattutto un bisogno di carattere estetico, l'autobiografia, non estetizzante, anche questo, ma estetico, perché sentiamo la necessità di rimetterci, vabbè, rimettersi in forma nel nostro linguaggio vuol dire tutt'altra cosa, però la scrittura ti mette in forma, dai forma alla tua storia, la ricostruisci. La rianalizzi, la risistemi, diventi un artigiano della tua autobiografia. Ogni autobiografo è un artigiano, perché nessuna autobiografia la puoi scrivere di getto. Puoi scrivere di getto un diario, ma la scrittura autobiografica ci richiede, e questo è un motivo sul quale insisto molto con i miei studenti e alla scuola di autobiografia di Anghiari, la scrittura autobiografica è una sceneggiatura retrospettiva. Diventi regista della tua vita, della tua esistenza. Hai un momento di frenesia quando ti accorgi che il filo conduttore incomincia a procedere, quando scopri che stai ricostruendo il tuo destino. Retrospettivamente, ma scopri anche che sei più addentro a un'attività della quale difettiamo sempre un po' tutti, che è l'attività introspettiva. Quando anche ritornando al passato ti incontri col bisogno di porti questioni di senso e questioni di carattere etico. La parola bilancio non mi piace. È un'attività introspettiva in cui ti interroghi sul senso e sul significato della tua vita. Sono le 7:10, io andrei avanti a parlare fino all'alba, ma volevo, ecco, quindi riassumendo alcuni motivi. La scrittura è una forma di cura adeguata e dotata di una certa serietà, non solo per le ragioni che dicevo prima, ma è una forma di cura perché fa bene alla mente, perché stimola il pensiero, ma non solo autoriferito, stimola il pensiero a guardarsi oltre. Dal punto di vista formativo potremmo dire che l'autobiografia è una tecnica, è una modalità che si inserisce oggi in un nuovo filone dell'educazione degli adulti che si chiama sviluppo personale, lo sviluppo per se stessi. Ma questo incontro con l'autobiografia diventa, che può diventare appunto terapeutico nelle situazioni di disagio, di crisi, appunto qui ho portato una serie di esempi, ma il tempo è volato. Soltanto questo, ho analizzato per esempio delle autobiografie scritte in carcere recentemente, e soprattutto delle scritture, e nei luoghi di pena, al di là della qualità delle scritture, troviamo poi dei frammenti folgoranti in ciò che scrivono i detenuti e le detenute. Per esempio, perché si scrive? Si scrive per parlare con qualcuno al di fuori. E questo è un frammento. Ho voluto raccontare la storia della mia vita per comunicare la mia grande sofferenza e solitudine. Si scrive per far passare quel tempo che sembra non mutare mai. L'idea di scrivere mi è stata suggerita da un'assistente volontaria. Si scrive perché ci si accorge che altro non resta da fare. E così gli anni passano, ma nell'animo cresce sempre di più il disperato bisogno di comunicare. Ed io ho preso finalmente la decisione di dar voce al mio grido muto. Si scrive per essere lasciati in pace, anche in cella. Ho voluto raccontare la storia della mia vita per comunicare la mia grande sofferenza e solitudine. Si scrive per non dimenticare quei meandri che si perdono nella memoria, per mettersi alla prova. Bisogna avere il coraggio di entrarci nella scrittura e quello che scrivi viverlo. Se lo vivi, ti viene una poesia. Si scrive per scordare. La mente offuscata da tanti perché e da tanti forse. Ci rimane solo una cosa, dimenticare. E quella ferita sarà rinsaldata, ma scrivendo. E poi ti trovi anche dinanzi a momenti di questo tipo. Questo è un altro diario di un detenuto. Ore 23. La gente accende la luce. Cosa stai facendo? Scrivo. Ma che scrivi? Ma che te scrivi? Lascia perdere, che qui sei in galera, pensa a salvarti la pelle. E lui risponde, mi salvo la pelle scrivendo. Ecco, questa è la scrittura che diventa cura di sé perché ci aiuta quale sia la nostra condizione, disperata, al limite, drammatica. Ci aiuta comunque a ricomporci, ci aiuta nel ridarci un ordine anche di carattere etico-morale, come dicevo. La seconda questione che voglio rimarcare, anche se prima l'ho accennato, e poi voglio chiudere con un altro riferimento, a mio parere molto bello. Sempre di Derrida, che ha fatto un po' da patrocinatore di questa nostra serata, con le numerose citazioni che gli ho dedicato, dobbiamo ricordare che la scrittura però ha, lo accennavo prima, una vocazione sociale, ma non solo perché lo scrivere nasce per comunicare ad altri qualcosa di noi, come un impulso. Proprio nella disperazione, io esisto, ci sono. Se non riesco a usare la parola, se non riesco a usare il grido, l'urlo, ti scrivo una lettera, ti comunico qualcosa. E scrivendo riuscirò sempre a dire qualcosa di più che non riesca a dire attraverso la voce. La scrittura è sociale perché ci riapre al mondo sociale. È sociale perché genera E questo lo verifico continuamente nelle mie attività perché ti ingenera un desiderio ulteriore di occuparti degli altri e delle loro storie, delle loro vicende. E ti accorgi che la tua vita, ancorché soggettiva, individuale, solitaria, non sarebbe vita se non fosse stata intrecciata a quella degli altri. Questa è la grande rivelazione che spesso ti appare verso la fine di un percorso. Quando ti accorgi che se tu non avessi potuto raccontare o descrivere dei ritratti delle vite altre, la tua vita sarebbe stata assolutamente effimera e povera. Ecco. Allora finiamo con Derrida, perché è un auspicio per tutti noi a non smettere mai di scrivere, quando il filosofo francese dice l'erranza felice del graphein, l'erranza felice della scrittura, era senza ritorno. Era senza ritorno, perché quando incominci a scrivere soprattutto di te, e profondamente non puoi più tornare indietro. È apparso qualcosa di diverso, ne parlavo stamattina facendo proprio gli esami con i miei studenti, che devono scrivere, gli studenti della specialistica, la loro autobiografia, anche perché si apprestano a diventare consulenti in pedagogia, e dico loro, vabbè, non fate un tirocinio con bambini, con anziani, con adulti, lo fate in primo luogo su di voi, un autotirocinio. Ci mettono a volte anche 2 anni a consegnare queste scritture per la cura che vogliono dedicare a questa esperienza. E stamattina una studentessa mi dice proprio, la domanda in realtà gliel'ho fatta io. Beh, senta, adesso lei ha scritto la sua autobiografia, poi devono scrivere anche la biografia di qualcuno che scelgono tra parenti, amici, chi desiderano, e proprio per questo doppio movimento. Si tratta di imparare a scrivere di sé, ma di imparare anche a scrivere degli altri, in un circuito virtuoso, ellittico, molto importante per me. E chiedo a questa giovane di 25-26 anni, riuscirebbe a concepire a questo punto la sua vita in modo diverso, dopo che ha scritto la sua autobiografia? E lei mi dice, ma professore, ma che domanda mi fa? Perché con me si lasciano un po' andare, no? Sono un po' irriverenti ogni tanto. Ma che domanda mi fa, professore? Non vede che io sono adesso queste pagine? 6 mesi fa non esistevo come pagina. E questo per me, vi assicuro, è stata una grossa soddisfazione. Grazie. Grazie, sono le 7:20, abbiamo un quarto d'ora di tempo da dedicare al dibattito per eventuali domande. Prego. Qui vi ho portato dei dépliants, se li volete vedere, poi della libreria. Aspetta, vieni di qua che è più semplice. Ecco, ci puoi presentarti un attimo. Sì, ecco, io chiedo la parola in quanto responsabile del seminario sull'autobiografia romanzata. Ecco, è giusto specificare e mettere l'accento su romanzata perché il seminario nasce all'interno di una scuola di scrittura creativa, dunque lei ha iniziato parlando di obiettivo, l'obiettivo naturalmente è molto diverso, ma anzi è quello di portare i partecipanti dall'autobiografia alla costruzione di una finzione narrativa, quindi come si può fare per utilizzare la propria storia per e da questa storia inventare un'altra storia, cioè partire da sé per arrivare alla costruzione di un romanzo, un racconto e quindi inventare dei personaggi, proprio perché non è, la letteratura ci insegna, in particolare i formalisti russi ci hanno insegnato a non sovrapporre mai la biografia dell'autore alla biografia dei personaggi, per ognuno che scrive, scrive partendo dalle proprie esperienze. Quindi non sarà un seminario sul contenuto, per così dire, ma sulla forma, cioè come si può scrivere partendo da sé. E quindi quello che si farà sarà un lavoro, intanto un lavoro che si basa su tre diverse metodologie: la scrittura, il voicing, cioè un lavoro sulla propria voce, quindi in qualche modo un lavoro di tipo psicologico, e qui, se vuole, c'è una valenza, se non proprio terapeutica, comunque un'occasione di conoscenza di sé, e poi il disegno attraverso il collage e vedere di costruire una mappa di eventuali personaggi partendo dalla propria esperienza. Questo seminario si svolgerà il 9 e il 10 di marzo all'UPAD, dove da 2 anni esiste una scuola di scrittura creativa di cui io sono responsabile insieme ad Antonella Cilento, che è una scrittrice che da 13 anni fa corsi di scrittura creativa, e qui napoletana, sì, l'abbiamo portata a Bolzano per unire l'Italia, naturalmente. Io sono siciliano, fra l'altro, piccola parentesi. Ecco, quindi è un'altra cosa, però se qualcuno di voi fosse interessato a, come dire, fare una riflessione di altro tipo sull'autobiografia, può prendere i volantini. E poi ci sarà infatti una seconda parte, che sarà un vero e proprio corso di narrazione, dove lì allora ci si sposterà interamente sulla finzione narrativa. Però ecco, è un'occasione comunque per avere un pubblico che ascolta almeno una parte della tua autobiografia, è un'occasione di confronto, perché si scrive, ma anche si legge e ci si confronta. Grazie. Ne approfitto, io appunto lavoro per il Teatro Cristallo. Fra pochi giorni partirà un'iniziativa nel nostro teatro che coinvolge anche l'UPAD e la Scuola di Scrittura Le Scimmie. È un concorso per scrivere una storia per il teatro. Siete tutti invitati a partecipare, a scrivere questa storia, che deve avere, però ci sono dei vincoli. Deve essere lunga al massimo 6 cartelle, da 1600 battute ciascuna. Insomma, l'augurio è che questo piccolo plot narrativo si trasformi poi l'anno prossimo in una vera e propria drammaturgia, e quindi si possa trasformare in uno spettacolo che sarà eventualmente curato da Nicola Benussi di Teatro Blu. Quindi, insomma, un breve spunto a ragionare su se stessi, a scriverlo e a vedersi anche messi in scena. Grazie. Io mi occupo di un gruppo di scrittura autobiografica all'interno di una università della terza età. Ho provato anch'io a scrivere di sì, in modo autobiografico, ma sono soprattutto le autobiografie degli altri che mi appassionano. E vorrei chiederle in che modo, al di là delle riflessioni che io così considero di aver assimilato, di aver sedimentato molto bene in me, come attraverso delle interviste si può arrivare alla scrittura, cioè come si può fare il passaggio stimolo così, che può essere considerato ovviamente un'intervista poco strutturata, si può accendere questo desiderio di scrittura, sì, il passaggio dall'autobiografia orale a quella scritta. Trovo che sia sempre un passaggio molto difficile, laborioso e che deve essere fondato soprattutto su una grande confidenza che non si improvvisa, e non, bisogno di tempi molto lunghi. Sono di Merano, insegnante di scuola media, in pensione da un anno e mezzo. Mi sto occupando di alfabetizzazione alunni stranieri nella mia stessa scuola come volontariato, e al momento sto concludendo un lavoro bello con un ragazzo afghano. Lo aiuto a scrivere la sua storia, un ragazzo che è arrivato dopo 2 anni e mezzo di un viaggio incredibile. E proprio sta imparando l'italiano in questo modo, perché abbiamo incominciato, proprio vedevo che aveva tanta voglia di comunicare, dopo che aveva un po' di padronanza di lessico, con l'aiuto di un vocabolario italiano-persiano, siamo riusciti a stendere, come lei faceva 30 anni fa. Io gli facevo dire in italiano l'essenziale, poi coniugavo il verbo nel modo più semplice, la scrivevo la frase, la rileggevo, dicevo è così, è questo che vuoi dire, e quando diceva di sì se la ricopiava. Quindi ha fatto un bel numero di pagine scritte, anche imparando la scrittura anche occidentale, perché lui aveva la scrittura farsi. E poi abbiamo ripreso tutto questo malloppo e lo stiamo allargando, e viene fuori una miniera preziosissima di informazioni della sua vita lì. Io gli dico, nessun giornalista potrebbe mai raccontare quello che tu ci racconti, e di un viaggio incredibile. Questo libro dovrebbe uscire in maggio, casomai lo segnaleremo alla biblioteca. Grazie. Intanto rispondo alla signora. Io credo che innanzitutto la scrittura, come dicevo all'inizio, debba scaturire da un desiderio, anche se i mezzi a disposizione di carattere culturale o scolastico sono minimi, se non c'è questa iniziale tensione verso la scrittura, si rischia di intervenire con una sorta di accanimento, che non è un accanimento terapeutico sicuramente, ma ti può allontanare completamente dalla scrittura, che i consulenti in autobiografia vigilino su se stessi, per evitare, anche gli insegnanti che rendono talvolta, che so, obbligatorio il diario, e questo significa allontanare per sempre poi i loro alunni, per fortuna non accade ogni volta, dalla scrittura, oppure fa scrivere i ragazzi autobiograficamente e poi con la matita cancellare i loro errori. Questo significa allontanare dalla scrittura. E nel caso che lei riferiva, io credo che talvolta in primo luogo sia importante che il consulente in autobiografia diventi scrivano del racconto orale, e come facciamo spesso in un'attività di volontariato autobiografico che abbiamo inventato alcuni anni fa a Milano e anche ad Anghiari, un volontariato di scrivani che ascoltano queste storie, le registrano e poi le restituiscono alla persona che non vuole scrivere o non può scrivere più, senza romanzarle, perché sarebbe un po' disdicevole. Le riscrivono però con una cura di carattere letterario e la restituiscono poi alla persona. Io credo che, qualcuno disse tempo fa, ogni vita merita un romanzo. Ecco, restituire tutto questo anche dinanzi alle difficoltà citate, sia un rifamiliarizzarsi, per esempio, con la scrittura, scoprirsi nero su bianco ancora una volta è una grandissima emozione, e mi è capitato anche in situazioni molto difficili, in case di cura, vedere le persone tenere presso il loro comodino questa loro storia riscritta in 30 pagine, 40 pagine, e mostrarla con grandissimo orgoglio e soddisfazione. Questo non l'ho scritto io, ma questa è la mia vita. In altri casi, sempre usando la registrazione, è interessante proporre alla persona che si vuole invogliare verso la scrittura, proporre alla persona questo scritto ritrascritto per insieme lavorare su questo testo. E quindi trovando insieme le parole, leggendo, come già prima diceva lei, non leggendo qualche riga e mettendo in luce dove quell'aggettivo può essere diverso. In questo caso si realizza un'autobiografia, certo dall'orale, che però viene in qualche modo accompagnata e incoraggiata da una presenza. E io mi occupo anche di scrittura clinica con pazienti psichiatrici o con persone che si trovano in situazioni di disagio esistenziale. Lavoro con un'associazione di Mantova, la Maria Bianchi, che si occupa di scrittura del lutto, e dove la scrittura aiuta le persone che hanno perso i loro cari a ristabilire un diverso rapporto di memoria con chi hanno perduto. Scrivendo non nell'immaginario di poter donare queste scritture alla persona scomparsa, ma scrivendo e elaborando la sofferenza all'insegna di un principio di carattere morale, etico, oggi quanto mai difficile da perseguire, vista anche purtroppo l'atteggiamento che abbiamo con chi ci lascia, il voler dimenticare il più rapidamente possibile, e con la scrittura dimentichi ma continui a essere vicino. Ecco. E altre situazioni che seguo sono situazioni, dicevo, di disagio esistenziale, persone che vivono delle sindromi anche di carattere depressivo, che accompagnate in un genere diverso di scrittura, che non è soltanto la scrittura autobiografica, ma la scrittura autoanalitica, hanno la possibilità di giovarsi sempre della penna e del lavoro sul testo, sul loro testo, ma anche di una vicinanza. Questo rende terapeutica la scrittura. Non c'è terapia se non esiste un terapeuta. Non c'è terapia. Questa è una condizione fondamentale, e sempre più mi sono reso conto di questa necessità. Esistono quindi oggi sempre più delle terapie che si basano sulla scrittura, ma la presenza dell'altro, di un terapeuta, è indispensabile. Se no parliamo di cura, come ho fatto prima. Dobbiamo distinguere tra la nozione di cura e la nozione di terapia. Ci può essere la cura che dipende da noi stessi, in relazione appunto a quanto vi presentavo prima, che diventa autocura, che diventa farsi carico di se stessi, ma se la sofferenza è estrema è difficilissimo da soli riuscire a riemergere dalle situazioni più buie, perché le situazioni estreme sono situazioni in cui la solitudine diventa angosciante, irreparabile, e quindi hai bisogno di una figura fisica, materiale che ti sia accanto. oggi sempre più numerosi psicoterapeuti sono accorti dell'importanza, dell'utilità della scrittura, che diventa una terapia senz'altro d'appoggio alle altre terapie. Però ecco, distinguiamo la cura di noi stessi, che già in alcuni scritti di Platone compare come motivo all'interno però della sua filosofia morale, perché il saggio deve imparare a curarsi. Nel dettato platonico la cura corrispondeva a riuscire a dominarsi. E infatti Platone, nella sua concezione, come sapete, della polis, si augurava che i politici, poveretto, imparassero a dominarsi. Nell'Alcibiade primo, andate a vederlo, consiglia Alcibiade che un giorno va baldanzoso giovinetto per le strade di Atene da Socrate, gli dice: Socrate, voglio fare politica. Bene, ti vuoi occupare, curare la città? In primo luogo devi curare te stesso, come dominio su di sé, e quindi come padronanza di sé. E ancora, la parola cura per i greci voleva dire studio di sé, studio su se stessi. Gnosis auton, conosci te stesso, ma la conoscenza di sé è appunto non un divertissement, la conoscenza di sé è un impegno di natura filosofica, perché applichi l'attività filosofica a te stesso e alla tua vita nella polis, nella città. Bene, vi ringrazio per questa attenzione e arrivederci.